Questo San Michele 1944, Andrea Lanciotti come voce narrante, Fabio Porroni al violino, Diego Polidori alla chitarra, Maria Clara Verdelli al violoncello. Ne parliamo con Anton De Guglielmo, che questo spettacolo segue sempre. Ci sei, Anton? Sì, sono qui, eccomi. Grazie Federico, grazie per l'ospitata alla vostra trasmissione. Senti Anton, uno spettacolo in cui la musica è un elemento determinante. Sì, assolutamente sì, ed è nata per una costruzione, un work in progress fatta proprio sul testo che ha scritto Andrea Lanciotti, appunto, ed è stata un'operazione di costruzione da parte di Diego Polidori attraverso un canovaccio armonico, sì, che poi è questo filo conduttore che c'è in tutto lo spettacolo. Sì. A questo si è unita la mano, il dito di Fabio Porroni e in ultima Maria Clara Verdelli. Oh, per quanto riguarda lo spettacolo, è un recupero della tradizione della memoria orale a livello narrativo. Sì, è proprio nella tradizione del teatro di narrazione, sì, questo spettacolo, e l'idea principale era proprio recuperare la memoria storica di chi eventi del genere, fondanti della nostra società, l'ha vissuti veramente. Una piccola precisazione, all'ascoltatore proprio attento avrà notato che il personaggio principale in realtà non è Andrea stesso, quindi al maschile, ma una donna, cioè sarebbe la madre di Andrea, ovvero il racconto che nella realtà è fatto dalla nonna Gina Pistonesi. Ad Andrea nello spettacolo è stato tradotto con un dialogo fra Gina, cioè la nonna, e la sua futura figlia, che al momento dell'azione, della vicenda, non è ancora nata. Anzi, lo spettacolo nasce proprio dicendogli che era incinta, appunto, la mamma di Andrea. Questo per dare una connotazione su come è nato lo spettacolo. Andrea quindi ha intervistato la nonna in vari momenti e ne ha composto un testo che poi poco a poco ha rielaborato teatralmente, una drammaturgia, e così è nato appunto San Michele, quindi un racconto storico proprio degli eventi. Senti, abbiamo pochi minuti a disposizione, una manciata di minuti, per cui ti chiedo a questo punto i riferimenti internet per chi volesse saperne di più e anche se ci sono date prossime venture per la messa in scena. Lo spettacolo è nuovo, è nato l'anno scorso e ha avuto delle date qui a Roma, alla Fanfulla, alla Libreria Indipendente del Ghetto Ebraico Nemporqua, scusate per il mio francese, e poi a San Michele proprio e anche a San Giorgio in provincia d'Ancona. Date future al momento non ce ne sono, vediamo da settembre in poi. Per cercare lo spettacolo si può trovare integralmente o nel trailer su YouTube con San Michele 1944, appunto. Sì. Un riferimento è sempre Andrea Lanciotti, che è sicuramente quel motore trainante di tutta l'operazione, e cercando poi l'associazione produttrice dello spettacolo, che è Fati Diversi. Benissimo, io infatti come riferimento internet ho messo la pagina Facebook proprio dello spettacolo San Michele 1944. Sì, esatto. Anton, io ti ringrazio, è stato un piacere, magari ci grazie. Si risente presto. Magari, veramente, complimenti per la trasmissione. Grazie, grazie. Davvero. A presto Anton, ciao, un abbraccio. Ciao.